E siamo in collegamento con Pierpaolo Palladino per parlare di un'antologia Roma d'autore a cura di Gabriella Curuvilla che sarà presentata in una doppia data romana venerdì 4 e sabato 5 prossimi. Pierpaolo, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao Federico, ciao. Come ciao stai? Ma forza bene, te? Bene, bene. Ho saputo anche, dopo sentiremo il nostro Simone Nebbia per l'agenda della settimana teatrale romana, che c'è anche il suo zampino. Sì, sì, sì, sì, a furia di frequentarsi appunto si prende il vizio, per cui Simone Nebbia è in coppia con Di Paolo, è uno dei due autori, Paolo Di Paolo, è uno dei 10 autori di questa antologia, che si articola in si sviluppa in varie zone di Roma, vari quartieri, ognuno ha scelto il suo e ne è uscito fuori questa antologia d'autore appunto. Qual era l'assunto di partenza per il lavoro? Ma di pochi dati, doveva essere un'ambientazione riconoscibile in una zona di Roma, si lasciava all'autore l'originalità del soggetto, vi era un limite di durata perché chiaramente era un'antologia, quindi erano dei testi brevi, sì. Stavo per gli atti unici per la mia frequentazione del teatro, ma in questo caso è narrativa, sì. Anche Simone è un teatrante, ma è narrativa, anche Lorenzo Papolini, insomma ci sono anche degli autori che dal teatro, Lorenzo scrittore, chiaramente, per me è stato il debutto, un debutto nel mio caso da un testo teatrale che avevo fatto qualche anno fa, che era Sputa la gomma, ho conservato il titolo e il mio racconto l'ho ambientato in una scuola media a San Basilio, e ho scoperto che oltre a me anche altri hanno voluto ambientare i propri racconti in zone più periferiche. Ci sono anche tentazioni al centro, beh, un centro adesso molto multietnico come per esempio quello di Lorenzo Papolini appunto, che l'ho ambientato a Piazza Vittorio, e poi altri a Ponte Lungo, al Pigneto, che è poi il nuovo centro storico. Insomma, ognuno ha scelto un quartiere e poi lì ha ambientato la propria vicenda, cercando di far riconoscere un po' alcuni lati della città, anche meno turistici, insomma. Quello che mi è venuto fuori è sicuramente una città vissuta dai romani oggi. Quindi oggi il limite, c'era anche un limite temporale? No. Che io sappia no, a me non mi hanno detto, non so se non sono capitate ambientazioni storiche del passato, ma vi sono poi vari stili. La cosa bella è proprio la differenza fra una penna e l'altra. Chi più con tracce autobiografiche, più in prospettiva, quindi il riferimento alle strade, ai palazzi, agli ambienti, erano più riverberava il proprio stato d'animo del personaggio. Sì, sì. Chi proprio autobiografico, come è stato nel mio caso, in cui ho ricostruito un po' ricordato il rapporto che ho avuto con dei ragazzi di questa scuola media, di cui molti erano nati, cioè rumeni più che romani, nati a Roma di seconda generazione, ma uniti dall'idioma romanesco, insomma, sì. E altri un po' più con una maggiore libertà fantastica nell'ambientazione, nella scrittura, come con Papolini in Piazza Vittorio. E quindi questa varietà è forse la ricchezza maggiore di questa piccola antologia. Però ho visto che in libreria lo si trova spesso tra le guide romane, quindi andare in giro per Roma, Roma d'autore, allora siamo una guida della Roma. Una guida della nuova Roma. Senti Pierpaolo, invece i criteri di scelta degli autori quali sono stati? Cioè chi ha curato la selezione? Allora, questa è una domanda che dovrebbe fare alla curatrice, che è Gabriella Curuvilla. L'idea poi era già cominciata con Milano d'autore. Ah, okay. Gabriella è un'autrice di Milano. lei è italo-indiana o milanese-indiana, perché è molto milanese, e sempre con Morellini ha avuto successo, e quindi hanno proseguito come progetto Roma, e poi dovrebbero avere altre città in programma, dovrebbe essere, forse, che io sappia, Napoli, Bologna, e poi, insomma, per costituire una collana degli autori delle grandi città italiane. Senti Pierpaolo, facciamo un passo per volta. Le presentazioni di questo periodo ci sono, le prossime saranno il 4 e il 5, e come si svolgono? Dove si svolgono e anche come, cioè intervengono gli autori, ci sono delle letture? Sì, non ci saremo tutti, perché poi 10 sono un po' sparsi, c'è chi sta in Germania, però sì, l'abbiamo già fatto. La cosa bella è stata poter avere questi scrittori che si alternano nel raccontare, e che si conoscono anche in questa occasione, perché sono stati, è un po' come una rassegna, una fiera, no? In cui ci si conosce per essere stati accomunati dallo stesso progetto editoriale, e la cosa appassionante di questa presentazione è proprio il confrontare le varie emozioni con cui hanno partecipato, cioè le differenze tra l'uno e l'altro sono una cosa che, abbastanza coinvolgente, curiosa per il pubblico che viene a vedere, per cui abbiamo deciso di continuare a farle grazie all'ospitalità delle varie librerie che ci sono a Roma, proprio perché è divertente come happening. Insomma, poi ognuno legge un pezzettino, dà un esempio di un gruppo di persone che ancora credono nella scrittura, anche forse proprio per diletto, divertirsi a scrivere non è poi così facile, crederci, insomma. Senti, a partire dalla scrittura, sono previsti o si stanno sviluppando, come a livello di idea, di progetto, degli sviluppi interdisciplinari, nel senso ne nasceranno magari dei piccoli lavori teatrali di questi scritti? Ah, questo va domandato ad ogni autore. Ad ogni autore. Io parlo per me, io vengo dal teatro e sono grazie. Ho prima scritto uno spettacolo teatrale, poi l'ho riscritto, che si tratta di una riscrittura in funzione narrativa. Chiaramente al centro della mia scrittura ci sono i personaggi, perché vengo dalla drammaturgia, potrei scrivere forse un soggetto cinematografico, insomma, poi sai, la narrativa. Quando c'è quando si riflette sulla differenza fra teatro, dramma e letteratura, ciò che è descrizione e ciò che è dramma del personaggio in azione, le due cose possono convivere. Diciamo che per me, da debuttante, ho dovuto imparare a sconsiderare a valorizzare quello che era una didascalia, come un lei disse, voltandosi, la guardò intensamente, per dire, no? Che di solito un autore di teatro di cinema lo mette tra virgolette, tra parentesi, perché è un'indicazione quasi tecnica, no? E tutto questo poi può arricchire, però i personaggi sono, nel mio caso, sono il punto iniziale e finale che creano necessario una storia. E quindi poi la posso fare anche in radio, l'esperimento che tu fai da tanti anni di teatro in radio fa vedere come anche i due mezzi, quello del palco e quello radiofonico, siano così vicini, come anche le letture di testi narrativi fatti a teatro spesso si prestano molto volentieri. Quindi in realtà sono materie che si mutano a vicenda. Sto andando avanti a ruota libera, perché non mi fermi. Però tra l'altro tu lo sai che abbiamo... Non so bene che cosa sto dicendo, ma lo sto dicendo in diretta. Tra l'altro tu lo sai che abbiamo un appuntamento in sospeso con un tuo lavoro, che è relativo a Garbatella, Albergo Rosso. Esatto. Certamente, con Minetto Tavoli, sì. Prima o poi ci riusciremo a mandarlo in onda, insomma. Spero proprio di sì. È stato un fiore all'occhiello di qualche stagione fa. Sì. Spero di appunto, grazie a voi, di Radio Onda Rossa di poterlo riproporre in radio. Senti, allora. Va bene, quindi vi aspettiamo venerdì alla libreria Mangiaparole. Mangiaparola, esattamente, che sta sulla Tuscolana. Via Manlio Capitolino 9, qui leggo. Eccolo là. Sì, vicino al metro di Furio Camillo, mentre invece alle 18, sabato, sempre alle 18, alla libreria Griot, che non mi ricordo dove sta, però tu. Via Santa Cecilia 1A. Ridilla che ti ho interrotto. Via di Santa Cecilia 1A. Ecco. Via di Santa Cecilia 1A, sempre alla stessa ora. E non mi resta che ringraziare l'editore Mauro Morellini, perché da Milano si è preso la briga di certo il gusto di dare a tutti il testo giusto, incontrando 10 autori, scrittori romani. Per un milanese che si cala a Roma significa rischiare di perdersi nel pressacquochismo capitolino, e invece no, siamo riusciti ad arrivare in porta. Venerdì e sabato ci sarà anche pure per controllare che ci presentiamo all'incontro. Esatto. Sarà presente di persona Mauro Morellini. Allora, Pierpaolo, io ti tampinerò ancora per Albergo Rosso, quindi avremo grazie. Modo anche di risentirci qui in diretta. Un abbraccio. Grazie a tutti voi. Grazie. Ciao.